finita è la notte e la luna si scioglie lenta nel sereno, tramonta dai canali. È così vivo settembre in questa terra di pianure, i prati sono verdi come nelle valli del sud a primavera. Ho lasciato i compagni, ho nascosto il cuore dentro le vecchie mura per restare solo a ricordarti come sei più lontana della luna ora che sale il giorno e sulle pietre batte il piede dei cavalli.